Lupo c'è Stefano, Lupo sotto giù, Lupo c'è Stefano, Lupo c'è Stefano, Lupo guardava la luna, c'è Stefano, Lupo teneva paura. Venne a casa, c'è Stefano a rosa, vicino la rosa, c'è Stefano a sposa, c'è Stefano a sposa, aspettava gli sposi, c'è Stefano a sposa e guardava gli fuoco. Stefano fosse, ci Stefano fosse, come era rosso, tanto era rosso, faceva paura, rende sto fosse una creatura, sta creatura che ogni chiedeva, mani sciocchura, la sentiva, sta creatura luccava forte, ma la sentiva solo la morte. C'è Steva la vita, eppure essa l'era sentuta, ricetta la morte, iso la vita, la sala aperta e farla finita. Ricetta la morte, iso più forte, ricetta la vita, ma iso più vita. E mentre la vita affrontava la morte, che la creatura luccava più forte. Casa ci steva una sposa, rendono fosse la vita e la morte, che la creatura luccava più forte. La sposa sente il rumore, pure il lupo sente gli attori, si incontrano al fosso lungo sentiero, la sposa è rosa e il lupo nero. La sposa vola in braccia di un fucile, il lupo capisce non vuole morire. La sposa spara e cira il lupo e si dirige e blocca il lupo. Che alluccava forte, alluccava forte, teneva paura, il piccolo lupo era che la creatura. Prende il lupo, un piccolo lupo che alluccava forte, la sposa spada che tiene paura, ciro pure che la creatura. Prende il fosse una botta forte, la vita piersi ha vinto la morte. Prende il fosse una botta forte, la vita piersi ha vinto la morte.